gliel'ho ordinato, se lo volevo, vabbè, mi dirà lui. Ok, riprendete, io adesso chiudo, vado a fare questa benedetta commissione e buon proseguimento. Rilanciamo per Gianni. Aspetta, scusate un attimo, Marco. Vai, Robè. Tu dove hai preso l'adattatore da Mini Jack 3.5 a PL? Sì, Robè, chi se ne ricorda? Guarda, io potrei averlo preso ai tempi del Texun direttamente da Ifeleco Elettronica, cioè come ordinato il ricevitore, ordinato l'adattatore, perché se lo chiedi qua potrebbero averlo, ma anche no, è un po' lonfio quello, come adattatore, non è dei più gettonati da noi, capito? Male che vada l'ordini da fuori, dai, costa più la spedizione che l'adattatore. Sì, sì, no, l'ho già ordinato, no, pensavo ci fosse qua a... Ok, scusate, il monopolio facciamo prendere a doppio room, poi vediamo se Claudio è rientrato e poi a Gianfranco. Guarda se è questo l'adattatore o se è diverso. Mi ascolto. A me? O a Roberto o Claudio? No, questo è un altro sistema. Questo da RCA a PL. Quello che serve a me, che l'ho già ordinato, è Mini Jack, quello delle cuffiette. Ce l'hai presente, però mono vuole, non stereo. Ed esce con PL. Simile a questo, però l'ingresso non è per questo, è un attacco RCA. Da RCA a coso, a PL. Ok. No, non so, trovo io. Se non è questo, io stavo controllando, nel frattempo stavate parlando. Va bene, va bene. Avanti già. Claudio, è quello. Maschio, come dire, jack maschio 3.5 mono e femmina PL. È mio, è così, ma è simile a questo, ma è RCA. Ah, sì, sì, sì, lo conosco, sì, conosco anche quello, è vero. C'era anche quello. Ok, dai, riprendete, chiudo quelli per me. Comunque, per la cronaca, l'antenna veicolare era una Proxel Pro X1, è multibanda, con base magnetica. E risuona, con l'antenna risonante la ricezione aumenta tantissimo. Ok, va bene, chiudo, riprendi Claudio quelli. Buona serata. Te l'ho mandato. E io aspetta che guardo. Sì, sì, sì, questo è PL femmina RCA maschio, esatto, sì. E questo ce l'ho per il Maxcom 7, quel portatile americano. Marco Fritella! Luca Fritella! Ciao Luca! Ben entrato. Vabbè, vi saluto, dai. E io, ciao classe, sentiamo. Riprendete. Io sono qua, un po' là, là. Riprendete anche voi, mai ci sentiamo dopo. E io. Non mi salutate tutti assieme, mi raccomando. Ehi, ciao Marco, detto, riprendete, io stavo aspettando riprendesse qualcuno. Ciao anche Luca, ciao Marco, dai, anche io tra poco vado via. Vediamo se c'è ancora qualcosa. Gianni doppio room e Gianfranco. Avanti prima Gianfranco e poi doppio room. Io ti ho detto, non posso parlare molto perché c'ho male di gola, capito? Se non mi fa male. Ok, riprendete pure. Ok, vai doppio room, nulla. Luca, tutti voti, Claudio ci sei. Hola. Ah, sono rimasto. Ti ho detto tra poco me ne vado anche io. Ho chiamato a te un paio di volte e non ha risposto. Ho chiamato a Luca, non ha risposto. Marco è andato via e Gianfranco c'ha mal di gola, Claudio bu. Come mi ascolti con questa radio? Abbastanza bene, che radio è? No, radio ha stesso microfono. Come? Microfono, ho fatto altre regolazioni, sempre la stessa radio, però col microfono con l'equalizzato ho fatto delle prove, io mi sono ascoltato. Dai. È molto simile alla tua voce. Verticale, dai. Infatti ho cercato di renderla il più possibile simile, dai. Ah, già va bene, va bene. Va bene, mi piace, sto uscendo con l'Intec. Con l'Intec, col piccolino. Ma quale Intec? Quello sotto le bar. Ma quello nero? Eia. Ma con l'eco suo stai uscendo? No, non hai eco. Ah, sono a predisposizione questo qua. Io l'eco ce l'ho nel microfono. Il mio ce l'ha l'eco. No, io l'ho preso, non funziona nulla. C'è anche Roger Beep. Non lo so. è che non c'è istruzioni per saperlo come funziona, però l'eccolo funziona, provato, c'è scritto si accende la luce, quando lo premi, non lo premi, però funziona. No, mio, c'è RB vuol dire Roger Beep, e a fianco c'è scritto ecco, li schiacci, non so come si regola, non l'ho visto perché non l'ho mai provato. Quello a due strumenti mi stai dicendo. Ma tu quale stai usando? Quello non è allora quello nero? Quello che rimane sul grigio scuro, là. No, ma quello non è a di ecco, il multicom sta dicendo. Sì, ma tu non avevi anche quello nero? Era un altro Claudio questo. Ah, io pensavo che stessi usando quello lì. No, quello là grigio non è a di ecco. Quello là, quello che c'è Claudio, però premevo il pulsante, adesso mi stavo confondendo, premevo il pulsante, si accendeva la luce, ma eccolo, non se ne sente più. Ma mio già ce l'ha, non so come funzioni, c'è una gaggata, perché l'ho usato un paio di volte col baracchino, l'ho preso perché era un blocco, mi hanno dato altre cose, l'ho preso a poco prezzo tanti anni fa, però poche volte ho modulato, gli ho messo di lì un microfono suo originale da base, un Intec, non mi ricordo che modello è. Ma quello lì non è quello che ti ha venduto con ragazzino che il padre lo voleva indietro? No, allora, una cosa, io ne ho due di Intec, c'ho quello che stai dicendo tu, il Multicom, ed è quello di quel ragazzino, eccetera, eccetera, e gli ho messo l'M600, che quello l'M600 c'ha anche l'Eco, e più c'ho l'altro, quello nero, come tuo, quello che stai dicendo, che è a Claudio, e lì gli ho messo un altro microfono, sempre della Intec, che c'ha un affare, sembra un coso di, un flessibile di coso, c'è presente quei flessibili? Sono qua, io quello sto usando, 31.004. Quello lì, 31.004, quello lì c'ha l'Eco e Roger Beep. E questo sto usando io. Come? E sto usando questo. Ho capito, però gli stavo dicendo a Gianni che c'ha l'Eco e Roger Beep. Lui dice che a lui non gli funzionava l'Eco. Non funziona, c'è la scheda ma non funziona, non so com'è. Adesso in questi giorni lo porto a Gigi e me lo faccio sistemare. O è staccato qualche filo, boh, c'è qualche trimmer da girare, non so, io ma intendo lasciato stare, però la scheda c'è l'Eco. E io. Lasciamo un attimo nel bianco, vediamo se vuole entrare qualcuno. No, a me non me la frutti un dell'Eco, funziona molto bene. C'ha un bel funzionamento, là c'è l'MB più 5. 10 watt sta andando, già va bene. No, già lo sai che a me come lo vedo io la radio deve essere più fedele possibile, quando inizia a metterci a sporcarla per me è perso, poi se a uno gli piace non mi metto niente da dire, però se io devo uscire come la radio come voglio io non ne metto né ecco né niente. No, questa è normale, MB più 5, 10 watt, va bene. Sì, posso tollerare il Roger Beep, magari se c'è magari una situazione un po' disturbata per vedere quando smette di parlare, così lo posso accettare, ma lei proprio c'è gente che è tipo Gianni che gli piace, ma è anche altri, ma io proprio assolutamente, perché io dico se devi parlare io devo ascoltarti, non devo avere difficoltà ad ascoltarti, molte volte con l'Eco non si comprende nulla. L'Eco ti aiuta anche in lontananza, io lo uso specialmente in lontananza, ti aiuta molto, ti amplifica la modulazione, no, si è regolato bene l'Eco, lo capisce come. Già, io lo capisco quando sei in macchina, un camionista, ti sta muovendo, dove ci sono dei fading, di abbassamento di segnale, ma in città siamo tutti oltre 9, radio super 5, che ha bisogno di attaccare l'Eco. È una passione, come tu c'hai, un'altra passione quella era la mia. A me la mia prerogativa è uscire con l'Eco, ho sempre avuto l'Eco, e continuerò ad averlo perché mi piace. No, ma io non ti sto criticando assolutamente, tu puoi uscire anche tutto amplificato, distorto, ognuno ha i gusti suoi, ci mancherebbe, io sto dando il parere mio personale, io la vedo sempre il più possibile, non esiste la tappa realtà qua in questo tipo di modulazione, però possibilmente io cerco di uscire il meglio possibile, avere una voce il più possibile credibile, nel senso di sono quelli che c'ha la voce troppo cupa, troppo amplificata, troppo, cerco di regolarmi col mio orecchio di modo che sento nel migliore dei modi, per quanto possa essere fedele la voce in 27 su questo tipo di frequenza. Ehi, ehi, ehi, Roberto, ho già detto, ognuno usa la radio come meglio crede, l'importante è che ci capiamo e basta. Questa è così, questi sono baracchini, escono così, penso di uscire abbastanza bene, chiaro, limpido, quindi no, non è certo la modulazione quella del K, però chiamo aperta. Aspettate un secondino, vi voglio fare un raffronto con questo microfono e con l'altro, e mi dite che vi piace di più. Questo che microfono è? Il 60? No, questo non è il 60, questo è l'Adunis. Ma è attacca il 60. E questo è il 60, 1, 2, 3, prova radio, canale 10. Ma manca il paragone, ci rimane il 60. Ma come forza di segnale o come qualità? Ma qualità di radio, vabbè, te l'ho già detto l'altra volta. Quando c'è un parametrico, bravo quanto uno possa essere, è sempre difficile darle proprio la massima, come si dice, chiarezza al microfono, capito? Poi stai usando due microfoni diversi, uno ceramico e uno dinamico, quindi l'M60 è nettamente superiore come intensità di radio, come chiarezza, come tutto. Sei presente che questo lo posso giocare come voglio, l'Adonis, sono bassissimo come volume, sono proprio al minimo, posso salire ancora di più, aumentare la compressione, posso fare quello che voglio. No, io mi sono ascoltato, ho fatto una prova con una radio seria, con le cuffie, ascoltandomi, cercando di avere la migliore qualità, e ho cercato di trovare l'equalizzazione più vicina alla mia voce, come mi sento io. Poi magari questo 60 spinge molto di più perché è un po' più adattato per quel tipo di radio. Te la rispinta, vabbè, ti posso garantire che la spinta è uguale, la forza della radio è uguale. Sto parlando di chiarezza, sto parlando di intensità di radio, sto parlando di tonalità, sto parlando di cosa ti posso dire, non so neanche come spiegartelo, però è molto superiore sia come intensità ma soprattutto come chiarezza di modulazione. Hai sia gli acuti belli centrati, sia i medio bassi, sia i medio alti, hai tutto nel 60. Di là sento più medio bassi che medio alti, sento la modulazione un po' cupa, sento tante cose che non hanno niente a che fare con il 60. Yeah, ok, va bene. Invece tu cosa hai notato di differenza, Gianni? Uno che è molto più forte come microfono, è molto più spinto e cose. No, anche io la faccio come al contrario, arriva molto più forte. L'altro microfono, diciamo che la tua voce come se verticale, diciamo, è fedele, cose. Quello dell'MC60 è più da guerra, è più corposa, la radio e tutto. Questo è l'Adunis, che qua posso fare quello che voglio, posso lavorare come voglio, vabbè dai, questo diciamo è più salottiero, così state dicendo. Più salottiero, la spinta ce l'ha, vabbè, per carità, la amplificazione c'è, la chiarezza c'è, ma come intensità di radio è nettamente superiore ai 60, nonostante non abbia parametrico, non abbia niente, è un microfono diretto, ma anche come chiarezza, io la sento molto più chiara, più limpida la modulazione rispetto a quella là, capito? No, niente da dire, per carità, microfono eccezionale, radio molto presente, non è fortissima, ma comunque si sente insomma che sta spingendo bene, non c'è niente da dirle. Sì, vediamo un po' se vuole entrare qualcuno adesso sul 10, che tanto io tra qualche minuto devo uscire. La mia è la più bella. Beh, la tua per avere un accrocchio diciamo che è una delle più belle, va bene, è una bella radio, per avere un microfono non ad alto livello, ma un microfono che funziona bene con quella radio, ti posso garantire già che hai una bella modulazione. Vabbè, l'ho buttata così, dai, no? Giusto perché stavo sentendo di cosa state parlando, dai. No, ma te lo dico perché sei intervenuto, te lo dico perché la pura sincerità, io apprezzo molto non tanto i segnali, ma quanto la radio, perché a me non me ne frega niente se uno mi arriva anziché 9 più 20 o 9 più 30 a fondo scala, Santiago 7 o Santiago 5, però mi fa sentire una bella modulazione. Di questi discorsi li facciamo spesso, capito? A differenza mia, che posso avere sia il segnale alto che la radio, diciamo, alta oppure medio alta. Ma ce ne sono molti che cazzo segnaloni e poi radio non ce n'è. È più fattibile dare un senso alla modulazione che un segnale più alto, capito? Questo è quello che penso io. Eia, bene bene, avanti Roberto, buonasera. Ciao, buonasera Gianni. Lo conoscevi quel tipo che è morto, Gianni? Non so, ma che ti riferisci? Quello cos'era, un artista, che lì ci ha lavorato a Telici? No, ah, ho capito a che ti riferisci. Ho visto cosa suona la Sardegna, no, sicuramente avrà fatto qualcosa dopo che sono andato via io, però non... L'ho visto in altre situazioni, un paio di volte mi è capitato, ma dentro la TV no, quando c'ero io no, forse è subentrato dopo. Ok, come non detto. Allora signori, adesso devo andare via, saluto tutti quanti di nuovo, Gianni Doppio Rum, Gianni Rubroffetta, Claudio, Gianfranco sia all'ascolto e tutti gli eventuali su canale 10. Dai, io chiudo, ma ci sentiamo domani se coincide. Ciao ciao! Ciao Robert, alle prossime, ecco, via vita e saluti. Avanti, Doppio Rum. Ciao Roberto, ciao anche a Gianni, mi hai sentito, dai. Avanti per i saluti, Gianni. Ciao Robert, buona serata. Ho provato il microfono. No, sto scherzando, dai. Sotto a chi tocca? Sì, sotto a chi si mette, non sotto a chi tocca. Io fra poco devo andare a portare il carro. Sono 7:20 ancora e con la copertina non se n'è alzato, già viene lui quando vuole uscire. No, io a casa l'ho portato, visto che avevo ragione, era la diarrea. Te l'hai già detto, il mio l'avevo gettato prima l'ho riparato, infatti già l'ho poco da mangiare, ero un po' stanotte. Non so, sarà per io dei cani con questo cazzo di tempo che sta facendo. No, io l'ho dato il collo, è quello lì che ti ha fatto sicuramente male. Non ne vedo più adesso di pollo e basta. No, io le ho cambiate già. Io 20 kg se ne ha mangiato di crocchette col pollo. E pollo lo stesso di carne ne ho dato un bel. Adesso basta. Adesso mi hanno portato le crocchette di manzo. E poi al macellaio gli ho fatto fare un po' di carne macinata di manzo, un chilo di carne macinata di manzo, gliela do un pochettino alla volta, perché il pollo a lungo andare poi le fa male, capite? Quindi ho cambiato, anche io ho cambiato. E non gli ho mai fatto nulla, adesso ultimamente stava facendo male, allora ti davo cuore, ti davo altra roba, vini. Tutta questa roba qua, fettine di cavallo, quello già non li fanno male. Allora, la carne, fettine di cavallo io non gliela prendo, io mi faccio dare un pezzo di carne di cavallo, gliela faccio tutta a spezzatino, piccolo, no? Perché lui mastica poco e ingoia subito. Gliela bollita, ok, al sangue. Non so se tua madre trovava, mamma me lo lava, ed era un grande schifo prima andai cura, quindi immaginate di dover ricordare il brodino, no? Il sugo che fa il sangue che fa la carne, quella gliela metto nella ciotola assieme alla carne, lui si beve e mangia. Sì, già me lo ricordo. C'era ricostituente, faceva bene, non manca di la voce. Quindi mi sono stancato troppo. Ma infatti ti sento molto giù. Vai a berti un bicchiere d'acqua, rilassati. Sì, e a lui le piace tantissimo, perché praticamente beve, no, e mangia, ne metto il suo brodino. Questo glielo facevo tutti i fini settimana, tutti i sabati. Adesso mi sono mangiato bene queste crocchette di manzo, adesso vediamo, perché il pollo anche al mio le stava facendo male, qualche volta diarrea, qualche volta vomitato, eccetera eccetera, vabbè, come bambini piccoli, avanti Robrofè. Ehi, vabbè, io sono ancora impegnato alla polizia del sistema di UBC, la nostra qui Bucaria che mi tasava il mezzo e quindi ogni tanto faccio volume, adesso sono entrato alla sconfinata, dai. Comunque dai, rimango in ascolto, continuo a liberare un po' di spazzatura dal computer appena intervengo, ok, dai, buon proseguimento, già sono qua in ascolto. Fa wifi già, lasciamo qua, ancora un po', fra un po' mi preparo, andiamo a portare il cagnone, se si scelta, avanti doppio. Intanto si è addormentato, dopo che l'ho portato giù si è addormentato e cuca due ancora. E non mi è dormito dal zinco, era prima al sole fuori, poi come si è andato il sole, io ho ritirato la roba che era stesa, si è entrato dentro, si è coricato nel materassino che c'è sotto la TV, l'ho coperto completo e ancora uscire, quindi adesso vediamo, quando si alza lo porto. No, io quello giro già portato, non ci ritorno, no. Non sono molto in forma oggi, ho lavorato troppo, dai, non mi sono fermato un attimo, non mi sono fermato manco a mangiare, mi ho mangiato la mozzarella e la sanguignola, è uscito a pranzo, adesso già ho mangiato, ho fatto tramezzini, qualche cosa, così, due o tre tramezzini, mi sono mangiato. Tutti la campana, la frutta. Sì, come pensi che mangio stanotte? Sì. Ho fatto una bella cecciata a pranzo, stanotte mangio una mozzarella, un pomodoro, un settino di formaggio, di grano, basta. Sono pesato già e ho ripreso 2 kg, sono incazzato nero, senza mangiare, senza niente, forse questi giorni di festa ne ho approfittato, vabbè. Adesso ci rimettiamo ovviamente in carreggiata. E anche il fatto che non si esce più come prima, non si passeggia, si sta molto fermi a casa, e anche quello vuol dire non smaltisci, e quindi mangi e non smaltisci. Allora già ti dico, sto mangiando normale come sempre, poco pane, molta verdura, molta frutta, non sto toccando niente che mi possa far male, molta acqua, e ho ingrassato 2 kg, ed è proprio come hai detto tu, perché non sto uscendo, sono fermo, capito, ed è per quello, vabbè, adesso li buttiamo giù, ero 79 e sono 81, vabbè, ero 90, quindi già va bene lo stesso, non fa niente, però voglio tenere quella media lì, se no poi la roba che mi ho comprato non mi sta di nuovo. È capace che siano anche i liquidi quelli? Che siano i liquidi, no? Può darci pure già, bro. Forse 1 kg, 2 kg, è probabile che se vai in bagno poi scarichi tutto. Infatti in questi giorni sto facendo la pipì più spesso. Sto bevendo molta acqua, molta acqua, mi piace molto il tè, non ghiacciato, a temperatura ambiente, perché oramai la roba ghiacciata non è che la puoi bere, frullati, queste cose così, succhi di arancia, quelli acemi, quelli ne bevo tanti, quindi non siano proprio liquidi, perché non sto facendo niente di più. A me mi hanno portato dei limoni e dell'arancia, la campagna con i mandarini eccetera. Ho preso i limoni, me li ho tagliati, me li ho spremuti in un bicchiere, ho messo un po' di acqua, due gusti di dolcificante e ti la campagna che te la buona, la limonata fatta su. Già, se ti dico che ne consumo cassette io di limoni tra Ilaria e Anna, lascia perdere. Tutti i santi giorni loro fanno così, tutti i santi giorni. Allucinante, infatti ogni volta che vado la frutta in vendola, mangio la vagonia, ma ora pigli a fa tossico, cazzo. Quelli bruciano i grassi, brucia i grassi, no? Lo so, ma cazzo per loro non sono grassi, no? Grassi non veneno. In aria pesa 50 kg, mia moglie è più magra di me, non lo so, vabbè. Comunque c'è una cosa che fa bene, vabbè, e andare, vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare su 10, avanti pure, il canale è libero, tutto tace. E se ne stiamo all'ascolto, se vogliono entrare siamo qua, non c'è problema, il canale non è il mio. Ma come io, i canali sono di tutti i canali sono di tutti, non ce ne sono riservati. Vabbè, magari ognuno si fa la ruota per i cacchi suoi, cosa vuoi dire? va bene, che va bene. Mi pare che tra un po', quando vai a portare il cane, spengo e mi rilascio, mi guardo grande flagello. Già, stai tranquillo, non ti preoccupare, non aspettare a me, non io adesso fra un po' mi alzo, metto le scarpe, tanto c'ho un pantalone della tuta, non me ne ho manco accorto, perciò non me ne devo manco cambiare, metto le scarpe da tennis e giubbotto, sono già pronto, quindi vai tranquillo, non ti preoccupare, riposati, rilassati, io già lascio tutto acceso qua, semmai ci sentiamo dopo già, non ti preoccupare. No, tanto non è iniziata ancora, inizia alle 8, per il giornale. Poi c'è Sicialottis e poi c'è Grande Fraggetto. Mi dispiace che sia andata la Gregoracci. Ehi, vabbè, la Gregoracci per me non deve neanche entrare. Va bene che abbia fatto un'esperienza, ma è stata criticata, ce l'hai visto. Perché, cioè, essendo stata la moglie, l'ex moglie di uno dei più grandi ricchi d'Italia, cioè, già, dai. Non sai quanto li passa il Briatore alla Gregoracci al mese, 6.000 euro le passa. Vive in una villa a Monaco, l'ho vista stasera. Vive in una villa a Monaco enorme, una casa enorme. Una casa di 1.000 metri quadri già, e non c'è solo quello, c'è la casa in Costa Smeralda, che può fare le vacanze come e quando vuole, è una persona che non ha significato che entri in un contesto del genere, capito? Perché quelli che vanno lì sono tutti disipirati, è tutta gente che non lavora, che non fa niente, Maria Teresa Ruta, chissà se è Zingara ancora, viene proprio di gente fallita. No, aspetta, però... cosa ti volevo dire? A me quello che mi ha dato fastidio non è quello, è che ha illuso quel ragazzo, lo faceva incorrare, lo baciava, lo faceva e poi gli ha sempre detto che non erano fidanzati ma erano solo degli amici speciali, ma vattene a far culo, lo provocava in tutte le maniere. Sì, già, anch'io sono d'accordo, però chiaramente lei non si può esporre come può fare una qualsiasi, cioè tenendo conto che è ancora in buonissimi rapporti con l'ex marito, ha un figlio fuori che ti guarda, cioè sono cose, capito, io non lo guardo molto, lo seguo così di sfuggita, ma mia moglie non se ne perdeva, infatti ieri Barbara D'Urso, live non era D'Urso, oggi Grande Fratello, io me ne entrerò qua e mi guarderò qualche altro programma, però è una cosa che se tu la segui ci sono tante incertezze, tanti malumori, tante cose anche a livello personale non belle, perché sono tutte persone disperate. Sono persone che hanno mangiato, ma li senti fuori, ecco. Cioè, è una Maria Teresa Ruta che anni che non fa televisione, e poi chi c'è, io per nomi così, chi si Giulia, come ti chiama, chissà Giulia, chissà Stragaggona, chi dici che è modella, che è brutta come la minchia, cioè tutta gente che secondo me ha lavorato prima, poi non ha più fatto niente e chiede di entrare perché sto guadagnando una barca di soldi, ma già c'hanno un budget per entrare, per stare lì tutti quei mesi, e più sono pagati a settimana, quindi c'hanno quattrini, ci sono quattrini in ballo in questa cosa, cioè, ma tu immaginati Giacomo Utis, che è uno dei più grandi medici, come si dice, quelli che fanno, aiutami, vabbè, un grande medico, il VIP, che ha girato tutto il mondo, è conosciuto a tutto il mondo, che cazzo ci fa lì dentro? Ah, ne so. Ma perché sono tutti VIP, capito? Quello lì è Grande Fratello VIP, sono tutti VIP quelli che ci stanno dentro. Sì, ma VIP, che VIP va bene, VIP, ricordati già che la parola VIP sono tutti quelli che si sono fatti vedere in televisione, capito? VIP diventa anche un opinionista, no? VIP può diventare anche tu e io, ci chiamano per fare l'opinionista in una trasmissione magari che può interessare a te, di cani, a me di Radio Vita, ci sto dicendo una coordinata, ecco lì che diventi VIP perché sei in televisione, capito, ma un medico, cazzo, di quel genere lì, che è conosciuto in tutto il mondo, che ha i quattrini, che non ti bruciano in fuoco, un malgioglio, cosa ci fa un malgioglio lì dentro, non fa cosa? A toccare un burro, mi sa, sto orecchione che c'è. Quello lì è la sala di gay, cavolo, c'è signorini. Che gay, che gay. Dopo c'è, come si chiama, Thomas, come cazzo si chiama, quello lì è gay lo stesso. E poi c'è anche coso, quello che nomina tutto adesso, come si chiama, non mi viene il nome. E vabbè, comunque anche quello è gay, e poi anche quello con gli occhi azzurri, mi sembra mezzo pittigato. Giacomo Urtis gli ha dichiarato, dottor Urtis, quello è gay, quindi c'è gay. Cos'è? Bisessuale addirittura, quello. Poi c'è, non è né sessuale, né gay, né bisessuale, né nuda, ma Giulio, che è un noto paraguro a tutto andare. E poi c'è questo Tommy, poi c'è il presentatore che è gay, tanto è vero che c'era qualcosa che ho letto da qualche parte, quest'anno, grande fratello gay VIP. E vabbè. Sono, io non li critico perché non li condivido, ma non li critico. Però quello lì addirittura si è innamorato del figlio di Cosa. Ah, figlio mio. Per carità. Piangono come le ragazze quando si innamorano. Oh, boh, sono strani. Boh. Giacomo Urtis è un chirurgo estetico, già. Un chirurgo estetico conosciuto a tutto il mondo, è un grande chirurgo dei VIP soprattutto, capito? Sono passati tutti sotto le sue grinfe, cioè non sei uno che ha bisogno di stare lì dentro a fare chissà che cosa, no, assolutamente, capito? No, ma anch'io Gianni, anzi sono molto simpatici, sono molto... io non assolutamente, e non per quello, però dico, cioè gente che non ha nessun bisogno di andare lì, perché Maggiolio, grazie a Dio, è sempre in televisione, l'è pagato, è un grande scrittore di musica, capito, è un grande cantautore, cioè una persona che i soldi ce li ha, come tanti altri. Se poi mi dici quei ragazzini che ci sono, chi su Pierpaolo, chi Santo Andrea, Tommy, che è un influencer, chi sa Giulia, Romantesi, che non ha fatto mai nulla in vita gioia, capite, guadagna i soldi al computer. Questa gente qua bisogna lavorare, li fa entrare, li paghi. Ma gente che ha veramente quattrini, non ci fa niente lì dentro. E lo fanno per fare udine, gente conosciuta, capito? E vogliono, quello che dice lui è che vuol far vedere, per dire, la personalità dell'attore, del cantante. Noi lo conosciamo in una maniera, vuol far vedere la vera personalità. Del tipo, del cantante o dell'attore o dell'influencer, quello che è. Lui, Maggiolio, dice che il grande fratello è quello, far conoscere bene le persone. Fa vedere come disegniamo Canidocci, vedi Sant'Efano di Orlando, l'editrice di materassi, se entra a Mantrotta fanno la pubblicità dei materassi al grande fratello. Mi manca lui, se ne sono entrati altri due, mi pare. Mi sono addormentato l'altra volta, ma ne sono entrati altri due. Cioè Nardi, il conte Nardi, cioè cosa vi fa? L'hai già fatto il grande fratello, a chi si dovrà andare? Come si chiama quell'altra? Come si chiama quella che è entrata? Quella donna? Samantha De Grenet, Samantha De Grenet, quell'altra che è appena entrata, credito a Tommy, c'è tutta gente disperata già, dai. A me non piace quel programma, ti ripeto, lo vedo così a tragi perché purtroppo sono costretto, ma non è un programma che mi può interessare, non ha nessuna cultura, non ha niente da poterti insegnare. segnale, capito? Per me è poi a chi piace lo guarda. No, io già me lo guardo, dico la verità, non mi vergogno a dirlo, me lo guardo perché mi piace come vanno a finire le cose, voglio vedere come si mi intrippano certe cose, per dire, quella con Gregoracci con quell'altro ha fatto bene che lui gli ha detto che adesso solo come amica l'accetta e basta. Solo come amica la può accettare, ma che cosa le può dare un ragazzo di quell'età a una che è molto più grande e che ha vissuto per 13 anni nei miliardi, dormiva nel materasso pieno di soldi, e che cosa le può dare? Non le può dare niente. Ma non hai visto quando si presentava il venerdì e lunedì, cosa ci aveva appeso alle orecchie, nei polsi, nelle dita, cazzo, tutta piena di oro, di brillanti e di balle di boivara? Già, cioè, è stata per 13 anni la moglie di uno dei più ricchi d'Italia, capito? E ancora oggi, vive nel lusso, quindi che cosa le può dare un ragazzo del genere a lei? Assolutamente niente. Tante volte i soldi non fanno tutto, magari aveva i soldi, non ha trovato l'amore, adesso magari con lui la cosa magari va meglio, ma lui adesso forse per rispetto, forse perché ha anche ragione, perché è stata contesta lì, che prima lo ha illuso, si sono dati anche un bacio, eccetera, eccetera, se non si voleva esporre non lo baciava, lei era presa, però si tratteneva, capito? Le persone così, cioè, non mi vanno a me. Io ci sono stato con una persona così che andava, indietreggiava, vantava, cioè poi vedeva che io per dire interessato per qualche altra persona, allora si faceva di nuovo avanti, allora toglieva la sua gelosia, capito? Era così, però non ti dava nessuna sicurezza. Beh certo, così è così. No, vabbè, io già la penso diversamente, perdonami, però, perché una donna che ha tanto, ha avuto tanto, tornare indietro non è facile, hai capito già, perlomeno, ti ripeto, queste sono le mie opinioni, il mio pensiero, poi può essere vero, può essere falso, però io la penso così, perché è così, cioè intanto, come ti ho già detto prima, lei ha un grandissimo rapporto con Briatore, e non penso che lui, hai visto il primo periodo, è sempre intervenuto dicendo appunto, mostrando un po' di gelosia nei confronti dell'ex moglie, nonostante sia separato, però è separato legalmente, non è che hanno una separazione vera e propria, quindi molto probabilmente, se hai anche sentito, ha detto in diretta a lei che Briatore gli ha chiesto di sposarla una seconda volta, quindi è chiaro che tu in quel contesto lì non ti puoi esporre già, capito? Per quello te lo sto dicendo, quindi lei si è frenata automaticamente, ha anche sbagliato a fare quello che ha fatto, perché o non lo fai per niente, oppure se lo fai, fallo bene, sbattitene le palle di quello che ti dice il tuo ex marito, no? Questo è quello che stai dicendo tu, è giusto così? Certo. Ma anche tu, vecchiata, gli ha detto, se non ti va bene non prendi nemmeno più i soldi, gli ha detto una cosa del genere, capito? L'ho sentito io. Certo, l'ha anche un po' degradata, un po', come si dice, un po' avvisata, insomma, nel senso che o fai come ti dico io, altrimenti ciao, arrivederci, buon viaggio. E lei era quasi un po' d'accordo, poi pensandoci bene, perché non è rimasta altri 2 mesi? Perché altri 2 mesi, un mese e mezzo deve rimanere, escono dopo l'epifania, capito? Quindi, perché non è rimasta? Perché lui sicuramente gli ha detto, vieni fuori da lì perché tuo figlio ha bisogno di te, capito? Perché io ho le mie cose da fare, ho le mie cose da seguire e tu non puoi stare lì facendo la gallina, ma devi uscire fuori perché c'è bisogno di te. È chiaro che è così, perché altrimenti lei sarebbe rimasta. Ma già è bella, va. A tutti, diciamo, se mi appoggio, sei geloso ancora, anche se non è più l'ex moglie, sei ancora l'ex moglie perché è una bella donna, è una di quelle donne particolari, molto solare come persona, è bella anche come carattere. E beh, già l'ha tirato fuori il suo carattere, dai, già l'ha mostrato, certo che sì, non è la mia tipa, non è la mia tipa, però è una bella donna, è una bella donna sicuramente, ma ti ricordo che Flavio Briatore non ha avuto solo lì, già lo sai quante ne ha avuto Briatore di donne, molto meglio da Gregoracci. Che quando si è messa lei con Briatore, lei era una ragazzina, quindi è chiaro che si era fatta come ti ha voluto Eddo, ma Briatore ha avuto tantissime belle donne. Non dimentichiamoci Naomi Campbell, che è stata una delle più belle, nonostante fosse di colore. Vabbè, fatti loro sono già, va bene, dai, io vado a prepararmi che sono già meno 10, sveglio a quel cannibale che ancora è lì, tutto bello coperto, se no non si alza più, dai, tu riposati, alimenti e ci sentiamo dopo, ok? Dai, non lo so, però la voce mi guarda da stagione, ci sentiamo, dai, andiamo, dai, buona serata, Sì, aia, over, dai, a frappè se coincide, se no alla prossima, ciao già. Per il re, Giurifle. Tutta l'organizzazione, fare i faretti e quant'altro. Ma la Tarocci? Via, proprio dove abita lui, sotto casa sua. Si chiama cortometraggio. Sì, ce l'ho fatto qua al monte anche, sì. Ce l'ho fatto anche al monte d'estate, sto qua, non l'ho fatto. Cortometraggio. Cosa vuole fare? Chiama di positivo, frate, non ci stanno problemi, dai, cambio. Un'ora e 15, così, eh. Sì. Virginia. E domani, dopodomani è Santa Adelaide. Che va, cara? Domani è San Paganino, è diverso. Via da te, San Paganino. Mi danno i dito che sto pagando di prima. Io prendo sempre il 15 e il 30. Cappa, allora alcuni ti danno il 27. Vabbè, se l'ho preso una volta sì. Cappa, però questo mese pagano prima anche altre cose, ho sentito dire. Poi non lo gioco, eh. Ah, niente di strano perché c'è una terra di mezzo. Scusate, figa. Cappa. E dopo domani sono per me 46 tondi. 46 anni vai? Sì, mercoledì li faccio. 46. Ancora di sarretta. Sempre tu, sempre in tira, eh. Ah, no, beh, allora, se 46 anni fa così va perfettamente bene. E cos'è la Marasotti che ne fende? Non è che si imperano io 30 anni, però già si imperano a te. Sì. Allora andrà bene, se mi dico così che andrà bene. Una pedivella diventa. Altro che pedivella, eh. Dove è strano? Ma forse anche andando in Ibea va. Sempre lo stesso segnale arrivo a tu. Sì, c'è a fondo scala, sì. Ok, già andava bene. Andiamo, che è? Boh, grazie. Andiamo bene, andiamo, boh. Ma perché sei la ragazza, però? Cappa, a te lo ricordi, porca miseria, oh. Mamma mia, è morto da un po' di anni, eh. Andiamo bene, andiamo, che è? Ricordi a Vittorio una rossa? Sì, certo che me lo ricordo. E adesso da un po' di anni che no. Che è morto. Io me lo ricordo, capitina, porca la miseria. Sono venuto qua, scusate, mi sono dovuto lontanare. Sì, secondo me c'è un po' altino di radio, un po', passa un po'. Aspetta, era un po' sacco. Allora, hai ragione. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Ah, ma sei perfetto. C'è il mio giostrami volume tra te, Antonio, e l'abisso. Sì, vabbè. Io sono con una radio normale. Vabbè, io ero un po' senza utilizzarla questa, quindi magari pulendola si è spostata. Vabbè, non è niente. Come si comporta adesso, Olu? Satro, un bel satro. Adesso perché ho fatto una modifica. Sempre satro, sta innescando, sta. Come si, satro sta innescando. Poi, non so cosa ti dice Luca, io ti ascolto così alla mia radio. Il capo, adesso ho cambiato. Adesso va un po' meglio, no? Adesso sì. Cappa. Cazzo, non funziona proprio il ciugoso. L'ho provato tante di quelle volte, ma mi fa sempre questo difetto. È una canzone di borsa fanno, non ha più compreso. Cos'è? Cioè, se puoi dirlo. Un compressore, ma non compresse già nulla. Ma la radio? Sì, il compander, ma va meglio così che quando richiccio. Prova, tieni tenuto la portante, così ti guardo il segnale, e poi nello stesso tempo schiacci il pulsantino dopo un paio di secondi. No, il pulsantino devo schiacciare lo devo schiacciare quando devo mollare la portante, devo mollare, capito, per schiacciare l'SP. Va bene, ti sono, ti ho memorizzato, prova. Aspetta, adesso ho schiacciato il pulsante, fate un po' di casino, no? Allora, guarda, non hai cambiato niente, Anto, ma proprio una virgola, hai cambiato solo che vai in saturazione e stai innescando, come segnale rimani lo stesso? No, vabbè, come segnale sì, però, cioè, a me invece cambia perché li sento più bene la gente, però no, non fa, dai, sicuramente c'è qualcosa. Boh, io ti dico quello che è vero, e niente, così, non ha cambiato una virgola, solo che è peggiorato il radio e è innescando. Lo lago così, lo lago, non è mai andato bene, non è? Mai, mai, mai. Sa che cavolo, veramente incredibile. Che cioè SP non è mai andato bene, come lo schiaccio, sì, a sentire sento bene la gente. Però innesca, non capisco perché. Quello che ti dica, noia. Luca, sono andato sai. No, sono qua, un attimino sto facendo una cosa di tirati. Riprendo, aspetta, subito. Tanto siete qua, no? Sì, sto provando questi PC. Nel frattempo stavo facendo le chiacchiere. Sempre 9:20 sono lì da te. Sempre 9:20 sono lì da te. Che c'è il più distante. Guarda, quasi, non lo tocchi, ma sei vicino. E già va bene, dai. Ha voglia, ha voglia. Scappa. Ah, la pezza già. Già sono contento. Non lo tocchi perché. Diciamo che sei 9:15, dai. Già va bene, dai. Per la distanza mica. Io non sono vicino mi da te, poi penso che non sia neanche favorevole. No, io sono in basso, quindi non. Già te ricevo. Voglia. Tu come lo stai utilizzando? Che radio è quella? Il coso è. L'M790 Plux Intec è digitale col microfono suo. Ah, vabbè, ho capito. Omologato l'apparecchio? Sì. K. Cioè, va bene, non è che. Cioè, non mi posso lamentare. Me l'hanno regalato, me l'hanno. È scatolato, Penso che si assomigli come quello che c'è in esposizione lì in via Rosello, da Mario Quai. Aspetta che prova a cambiare la radio, che vedo un po' se va ancora questa qua. Vai. Aspetta che prima faccio l'altro diventatore, perché sennò non funge. Ci sono, sì? Sì che ci sei. Cosa stai utilizzando adesso? Ah, questo è un baracchino piccolino, dai. Un President Lincoln. Sì, funziona che una meraviglia. Allora, Jesh, che questo mi fa il difetto che quando schiaccio il mic sento uno tac, si gira. Non capisco perché sei più forte. Sono più forte di cosa? Di radio o di segnale? Di segnale. Cioè, sicuramente sei 9:20, perché sbatte, invece quello là non li sbatte tutti quei picchi. Vabbè, questo è un po' truccato. Aspetta che ne provo un'altra. Staffa. Ah, ma funziona benissimo. Eccomi qua. È questo? Ah, va. Aspetta che guardo. Dimmi. Prova. Guarda un pochino, 1, 2, 3. Ho questo segnale. Sì, già quando si è pronunciato il segnale, ma cavolo, gli sbatte bene, Questo è elaborato in picchi di modulazione, eh. No, va bene comunque, se gli attacchi 74.7 va forte. Non so però quanti watt c'ha quello, Non ce n'è bisogno qua di 747. Cappa, e ho visto che stai vendendo. No, non più, già fatto. Lo tengo quindi, tra l'altro ne tengo più due. Cappa. Allora stai vendendo più. Ma Allora, ti dirò che sinceramente non ricordo neanche se ce l'ho, qua, uno ce l'ho solo qui a Franco, l'altro boh, non ricordo più dove. Vabbè, ti, i telefoni come procedono bene. Che cosa? I telefoni che ti avevo ripato procedono bene. No, io sto sempre usando l'iPhone. Sì, l'iPhone che tu riuscì a stare più, se per me sta andando. Sì, sì, sì. E allora, diciamo che ci sono anche display che costano di meno, però non è come quello lì, che questo qua che ho preso io costa qualcosina in più, però è classe AAA, cioè non è buono, è un ottimo display. Poi se va a comprare un display originale, cazzo, costa, non so, 170 euro mi pare, o 150. No, ma già va bene. Sì, ma poi allora questo qua non ha come si chiama, né colori morti e né luminosità morta, proprio diciamo un ottimo leggibile. Va bene, poi se uno vuole spendere ancora di meno ci sono, non si viene a nulla, per carità, inizia a difettare. E l'altro sì. E l'altro c'è il parcheggio, perché non sono il tipo che si prende due o tre telefoni per volta, ne basta uno ed è anche troppo. Ho capito. Allora, riprendi anche. Cavolo, non mi ho seguito perché stavo chiudendo la finestrella qua. Stavo sentendo dei cosi del telefono. Ecco, là, sono ripassato con questa. Questo è K, va alla grande. Quello lì è il K. Vabbè, questa è un'altra storia. È freddo, va per acceso, mamma. Non sono neanche il watt che dovrebbe dare, sono al minimo. Ma perché con gli apparecchi ci vuole un po' per salire? Sì, dipende. Scusa, ti chiedo, per rispondere a un messaggio che mi ha arrivato Moi Moi. Cappa. Luca. Ehi, aspetta un attimo. Ehi, fai, fai. Bene, ogni tanto devo rispondere al telefono. È normale. Quando chiamani. Vabbè, no. Dico, sai, se relax sanno quando ti possono trovare, quindi o per un saluto o per altre cose chiamano, ma vabbè, e bisogna rispondere. Vabbè, già ci vuole, dai, ogni tanto. Sì, ma una cosa, tu che sei del mestiere, se la bomba GPL o propano è la stessa cosa oppure c'è differenza? Cioè l'aria propanata costa di più o di meno? E poi ti faccio un'altra domanda, dura di più o di meno del gas normale? Sta fesseria. Allora, le bombole partono così. L'aria propanata è in rete, quella che mettono in rete a Sassari. L'aria propanata è quella. Poi il GPL è sempre il GPL, solo che uno ha la miscela e l'altra è il propano. Se è sempre un gas GPL, una miscela e l'altra è propano. Uno serve per tirare forte se hai caldaia, se hai roba che cosa ne so, però non è detto, lo puoi piazzare nella stufa e va bene ugualmente. Capito? Se hai cannello, roba così, roba che tira. Però le puoi piazzare tutte e due, sia per la cucina e sia per... cioè uguale. Perché nei bomboloni del gas, quelli che mettono, c'è GPL, c'è. Non c'è aria propanata. L'aria propanata è solo nel gas di città. Punto. Sì, ma voglio dire, siccome mi hanno fatto una proposta, per lo stesso prezzo mi danno il GPL oppure mi danno propano, quale sarebbe meglio prendere? Il propano giustamente, ma è non è detto, è sempre GPL, è sempre classificato gas GPL, però tra il propano e la miscela, logicamente se la deve usare un elettrodomestico, cioè tipo una cucina, una stufa, potrebbe andare bene anche la miscela, però va bene anche il propano, perché la butan gas giù a Porto Torres, arriva la cassiera, arriva già il gas già fatto, è tutto propano, quindi è un prodotto solo, capito? Tipo liquigas c'è la differenza, c'è la miscela, il propano e il butano, però se tu ti riponi, andano bene tutte e tre, se tu metti un altro mezzo con una stufa, un barbecue normale, così. Il propano è migliore, giustamente migliore perché è più forte, e soprattutto se lo devi usare, se lo devi utilizzare per caldaia, per tutte quelle cose là, capito? Per la caldaia, per